Benvenuti e buonasera amici, soprattutto accoliti di Testa Croce Show e soprattutto discepoli del culto di Testa Croce. E come va? Avete passato una buona settimana? Noi sì. No, che ne sai? Io sì. Sì, dai, anch'io. Sono tante cose succose. Ci sono tantissime cose da dire, potremmo tanto riempire... dobbiamo ringraziarvi, no? Dobbiamo ringraziare, sì, oggi è il giorno del ringraziamento. E chi dobbiamo ringraziare? Ma io ringrazio te, ringrazio Radio Cage, ringrazio Federico che è qui a costruire come la sempre, trasmissione come con sempre. Noi. Ringrazio questa bellissima sigla, ringrazio l'universo per quindi averci... Quindi cosa c'è di nuovo rispetto alla consuetudine? No, è la giornata di ringraziamento, dopo magari ne diremo due parole. Dunque, quindi ci scusiamo innanzitutto per aver iniziato con un po' di ritardo, magari recupereremo 5 minuti sul finale. No? Non è dato deciderlo così, senza consultare i vertici, diciamo. Ma quali vertici? Volevo far finta che siamo, insomma, persone serie, che chiediamo il permesso, insomma. Sì. Ci allargheremo come sempre. Ci allargheremo. Dai. Siete pronti per l'ora di religione, cari amici di Radio Cage? E anche se non lo siete, ve la si beccate. Parte. Esatto. Dunque, direi di mettere... i contatti. Sì, tutto. Scriveteci a l'email è testaocroceshow@gmail.com. Poi abbiamo il nostro contatto Skype, Testa o Croce Show, ci potete aggiungere. E il nostro blog, che vorremmo diventasse una piattaforma per commenti e riflessioni altissime, che è testaocroceshow.blogspot.com. E ogni tanto postiamo notizie o assunti della puntata, insomma, sì. Seguiteci anche oppure lì, ogni potete tanto commentare non gli lo articoli. Facciamo. No, appunto, ogni tanto già include. Ok. Va bene, diciamo, dunque, direi di mettere intanto un sottofondo musicale che ci introduce a un argomento che andiamo a trattare. Eh? Sì, ci penso io. Cos'è questo sottofondo? Ma, ora vi spiegherò, intanto lo mettiamo. Dunque, oggi è un giorno particolare. È un giorno particolare perché ricorre il ventennale della morte di Freddie Mercury, che comunque... diciamo che è più che un mito, quasi una religione. In concomitanza con questo c'è anche la ricorrenza della morte di Pat Morita, l'indimenticato. Ma chi è? Pat chi è? Come chi è? È il maestro di Karate Kid, ovviamente. E quindi, insomma, ho voluto mettere in sottofondo questa canzone, che è una canzone dei Queen. Se non sbaglio dall'album A Day at Races, vorrei sbagliarmi, nella versione giapponese c'era una bonus track con questo insomma ritornello in giapponese, Teuto Riatte, che significa stringiamoci assieme. Qui mi sono immaginato Freddy e Pat Morita che si stringono e Pat Morita che li fa mettere e togliere la cera, insomma, veramente, una bella immagine. Veramente interessante. Questo sì. Insomma, mi sembra un modo di omaggiare nel modo migliore entrambi i personaggi. Anche perché ricordo che di Queen ho già messo una canzone la settimana scorsa, non mi sembrava il caso di occupare un blocco, insomma. Ma però sì, Freddy comunque è un grandissimo. Grandissimo, voglio... assolutamente. Dunque, a proposito di morte, vi vado a leggere una bella poesia di Fernando Pessoa, che in Italia viene spesso considerato poco, invece è uno dei più grandi poeti portoghesi. Poeti e narratori? Sì. È davvero un grande. Sì. E quindi vi vado a leggere una sua poesia che parla della morte. Ve la leggo in lingua originale, guardate un po', voglio provare a farmi sbeffeggiare da tutti. E poi Vince ci leggerà la traduzione. Se proprio devi, Gab... Abbassiamo un attimino, giusto un attimino il volume, lo teniamo in sottofondo che ci sta bene comunque. Dunque, amorci è a curva da strada, morir è so nao ser visto, si è scutu, io te uisa passada e gistir come eu gisto. A terra è feice a Gesseu, a mencira nao temnigno, nunca ninguém si perdeu, tudo è verdagi e cammino. Bene, direi che si è capito tutto, no? Ma insomma, il portoghese è comunque una lingua affine alla nostra, forse appunto. Qualche parola l'avete colta, infatti, però bene... Va bene così, no? Bene. Non lo so. Allora, leggo la traduzione italiana. La morte è la curva della strada, morire è soltanto non essere visto. Se ascolto, io odo il tuo passo, esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo, la menzogna non ha nido, nessuno si è mai perso, tutto è verità e cammino. Ebbene, tutto ciò sì. per? tutto ciò per introdurci al domandone esistenziale. Oh, la marzullata. Al domandone esistenziale. Però prima del domandone esistenziale ci sentiamo prima un contributo audio che adesso vi mando da un film. Poi ecco, facciamo così, non vi dico che film è e come l'abbiamo fatto in un'altra puntata, ci direte se lo riconoscete o no. Ecco, scriveteci il film. Ecco, allora un attimo che faccio partire il contributo audio. No, questo è sempre... Questo è sempre i Queen. Sì, sì, assolutamente. Chi ce l'ha mandato questo contributo? Dunque, questo contributo è ce l'ha mandato il nostro amico YouTube. Ah, ecco. Che casualmente aveva già proprio un pezzo, questo pezzo che io volevo utilizzare. Sentiamolo. È molto impreciso, paura. Ne sono spaventata. Ah, interessante distinzione. Oh, se solo Dio mi desse qualche segno. Se solo mi parlasse una volta, che so io, una frase, due parole, un colpo di tosse. Ma certo che Dio esiste. Siamo fatti a sua immagine. E io sarei a sua immagine, guarda, mi credi che lui porti gli occhiali? Non con quella montatura. Solo il nulla. Non esistenza. Buio. Vacuità. Cosa dici? Faccio programmi per il futuro. Bene, fantastico, fantastico. Fateci sapere se avete riconosciuto il film. E comunque, la domanda del giorno, ecco, il domanda essenziale, sì. Qual è? Quali sono i vostri programmi per il futuro? Cioè, come vi immaginate il dopo? Dopo cosa? Dopo la trasmissione? Beh, spero di no. Cioè, spero che non coincida col dopo di cui parlavo io. Cioè il dopo vita. Ah, ok. L'aldilà, benissimo, afterlife, benissimo, come dicono... Insomma, qualcuno... Chi lo dice? Non so. Persone di lingua inglese. Sì. Bene. Allora, scriveteci. Rispondeteci a questa domandona esistenziale. Testa croce show, chiocciola@gmail.com, preferibilmente. Comunque sì, anche su Skype testa in diretta. Croce show. Sì. E potete, diciamo, concorrere per vincere un viaggio nel Valhalla. Certo, e vi ricordiamo, l'estrazione è nella prossima puntata esatto, quindi sì. Non avete tantissimo tempo, però avete ancora a disposizione le vecchie domande, poi semmai ne ripetiamo. Dunque, direi di passare dalla morte alla vita, brevemente. Ricordiamo, in questo giorno nasceva tanti anni fa Carlo Lorenzini, meglio noto come Collodi. Sì. Facciamo gli auguri invece al ancora vivente Emir Kusturica, sì. Un grande regista che compie 57 anni. E ad Agnese Lapi Olivieri, che compie 0 anni, cioè è nata proprio oggi. Oh, auguri, felicitazioni alla famiglia. Sì, e sì. Tanti auguri. E nacque, non solo, sì. Non è finita, nacque in questo giorno anche il grandissimo filosofo Spinoza. Ed è il compleanno di Paola Cortellesi. Sono due personaggi più o meno della stessa, si occupano della stessa cosa, insomma. Vabbè, Cortellesi è una collega, in un certo senso. Sì, in un certo senso sì. E facciamo anche gli auguri di buon onomastico a Crisogono, Protaso e Enfleda. Perché che ridi, scusa? Enfleda e Crisogono e Protaso, se ci stanno ascoltando, sono personaggi dei dialoghi di Platone, giusto? Quasi, no, sono dei santi che si celebrano oggi. Uno è anche una marca di schiuma da barba. Chi è? Protaso. Ci somiglia un po', ma non è. Va bene. Direi che mandiamo un pezzo, dai, partiamo il primo pezzo. Ci togliamo dalla tristezza della morte e andiamo verso qualcosa di un po' più grintoso, magari, ecco. Questi sono i Led Zeppelin. Led Zeppelin. Questa è una zeppola, invece. Led Zeppelin con Coda. Grandissimi. Bene, We're Gonna Groove dall'album Coda dei Led Zeppelin. Bellissimo, e si lancia di nuovo in un ritmo accettabile dopo, sì. Dopo la lentezza dei defunti. Ora siamo carichi. Bene, e passiamo a qualche notizia. Della settimana. Allora, anzitutto, appunto, oggi è il giorno del ringraziamento. Io sapevo che. Grazie, Vince. Grazie mille. Ma soprattutto. Io pensavo che, almeno avevo sempre associato il giorno di ringraziamento ai Pilgrim Fathers, no? Quella storia della Mayflower nel 1600. Ah, io no, però insomma. A cosa lo associavi tu? Non so, al tacchino. Sì, senz'altro il tacchino ha un ruolo, però... Un ruolo sciagurato, un ruolo triste, che, sì. Che è critico, fortemente. Assolutamente. Però il ringraziamento venne festeggiato per la prima volta in Canada nel 1578, quando l'esploratore inglese Martin Frobisher arrivò nel nuovo continente e ordinò una cerimonia per ringraziare Dio della protezione data al suo gruppo durante la lunga e pericolosa traversata oceanica. Appunto... Vai avanti. No, appunto, in Italia ci sono 20.000 cittadini americani, ma non solo. Anche italiani. Sì, ma appunto, si ritrovano tutti a tavola con il tradizionale tacchino arrosto, come piatto principale, ripieno di purè di patate dolci, salsa di mirtillo, casseruola di fagiolini verdi, gran turco, rape, torta di zucca. Ti ricordo che è quasi ora di esatto, cena, non esatto. È una buona infatti idea. Infatti io lo faccio apposta. Poi la gente se ne va, non ascolta no, più. No. Ma questo ha un interesse anche per, diciamo, i cristiani, perché anche i cristiani hanno un loro giorno di ringraziamento, cioè i cattolici proprio. Infatti il giorno di ringraziamento cattolico si festeggia una domenica di metà novembre, quindi è già passato, e è un giorno in cui la Chiesa cattolica invita le comunità cristiane a rinnovare a Dio, Signore del cielo e della terra, sentimenti di vera gratitudine per la ricchezza dei doni del creato con un sincero esame di coscienza. Lo slogan della giornata di ringraziamento 13 novembre 2011 è: solo con Dio c'è futuro nelle nostre campagne. Campagne? Sì. In che senso? Campagne? Nelle campagne, cioè, perché si fa appunto gratitudine per la ricchezza dei doni. Campagne geografiche o campagne? No, no, campagne proprio. No, no, campagne proprio lavoro della terra, frutti. Ok. Sì. Insomma, non lo sapevo, è una notizia che mi coglie di sorpresa, anche se ormai comunque è tardi, certo, oppure vabbè, diciamo oggi, abbiamo tutti quasi un anno di tempo per prepararci, sì, al prossimo. Però oggi comunque è il Thanksgiving americano. A proposito, ho un contatto su Skype, il tacchino ringrazia anche lui. Ah, bene, finché se lo può permettere, insomma. Certo, tra poco... Vabbè. Va bene. Sì, noi deprechiamo quest'usanza, via, su. Sempre dagli Stati Uniti leggiamo, abbiamo letto in settimana, cioè abbiamo letto questo, non lo so, cosa nel Washington è successo? Post, sì. Una notizia che riguarda la Chiesa Cattolica del Corpus Christi, che ha vietato ufficialmente alle ragazze di fare le chierichette. Ora, dovete sapere che il Vaticano si era espresso positivamente nei confronti di questa cosa, che io non lo sapevo, dal 94 addirittura. Poi de facto quasi nessuno l'ha messo in pratica, e già molte chiese del Corpus Christi non lo mettevano in pratica. Comunque le rassicurano che le ragazze che sono state già addestrate prima del divieto potranno continuare a farlo, cioè a servir messa, però non potranno indossare comunque la nuova tunica nera che è riservata ai maschi dal 19 novembre in poi. Immagino che smacco per le ragazze. Ho letto che ci sono state varie proteste dei genitori che comunque tenevano che le loro figliuole facessero le chierichette messa. Sì. Hai usato tra l'altro un verbo fantastico, addestrate. No, vabbè, è giusto. Vabbè, è un insomma. No, è giusto. Allenare. Sì, sì, ecco. No, vabbè, ma anche, va bene anche addestrate a dire messa, insomma. Sì, sì. No, no, beh, dire ora. Comunque il motivo che è stato addotto è che i ragazzi comunque sono una scommessa per il futuro, nel senso che potranno essere preti in futuro le donne. Veramente? No. No, le donne no. Quindi per questo motivo tanto vale, inutile farle perdere tempo. Ah, ho capito. Capisci? Questa è stata la motivazione addotta dalla Chiesa del Corpus Christi, sì, per questa decisione. Ma senti, beh, in settimana c'è stata anche un'altra, un altro avvenimento importante, la visita di Benedetto XVI in Benin. Benin, con la N. Che si trova in Africa. Ah, viaggio durato 3 giorni nel continente africano, il Papa ha portato un messaggio di speranza non solo alla popolazione del Benin. Copy and call, insomma. Cosa? Da altri viaggi. Sì, in sostanza sì. Cosa ha fatto in Benin, praticamente? Allora, un'omelia in cui ha denunciato i maltrattamenti su donne e bambini, l'analfabetismo, l'AIDS. Contro l'AIDS, attenzione, evitando un esplicito riferimento al preservativo, perché ecco, per lui è un campo un po' minato, ha chiamato all'educazione sessuale, all'astinenza, al rifiuto della promiscuità e alla fedeltà coniugale. Riguardo invece alla povertà dell'Africa, il Santo Padre ha messo in guardia dall'idolatrare potere e denaro, esortando a servire i più piccoli, più umili. Lì ha consigliato di usare il preservativo per combattere la povertà. Naturalmente, no? Naturalmente. E tra l'altro questo succedeva nella giornata del Cristo Re, che è il 20 novembre, è una celebrazione cattolica in cui si festeggia la centralità di re di Cristo Re per la vita del cristiano. Si è chiesto, anche Radio Vaticana si è chiesta, quale aiuto potrà dare il viaggio del Papa ai fedeli del Benin? Uno si domanda, no? Ma che, c'è che, una risposta. C'è una risposta. Sì. Padre Alfonso Maria Bruno, dei Frati Francescani dell'Immacolata, ha risposto: aiuterà sicuramente la popolazione a sentirsi più vicina a Roma e a riconoscere ancora più fortemente l'autorità universale di Benedetto XVI. Ecco, in pratica è un viaggio di evangelizzazione pura e selvaggia. Beh, sì, eppure c'è stato uno studio fatto dal Barna Group, che è un istituto di statistica statunitense, che su chi sia il leader cristiano più influente negli Stati Uniti al giorno d'oggi. E ora hanno fatto questa domanda a un campione di un migliaio di persone, senza porre alcuna scelta, quindi insomma, come si dice, libero. Libero, esattamente. E, ma dove questo aspetta? Questo negli Stati Uniti. E la cosa curiosa è che al primo posto vediamo col 19% Billy Graham, che io devo confessare non sapevo chi fosse fino a che non sono andato a cercarmelo per questo motivo. Ecco, perché chi è Billy Graham? Diciamolo. Dunque, è William Franklin Graham, detto Billy, che è un predicatore battista statunitense, che è stato consigliere spirituale di molti presidenti degli Stati Uniti e insomma, a quanto pare è molto noto, perché il 19% delle persone lo riconoscono come il leader cristiano più influente. Al secondo posto c'è Papa Benedetto XVI, che comunque insomma quello solo il 9% rispetto al 19% di Billy Graham. Quello bellissimo è il terzo, sì, però. È Barack Obama il terzo. Poi abbiamo Joel Austin, vabbè, li cito, questi sono noti soltanto negli Stati Uniti. Sono altri predicatori? Sì. Sono poco, non sono dirlo, giocatori di football. Però per correttezza anche li cito, comunque al 5% Joel Austin, al 2% Charles Stanley, 2% Joyce Meyer e altri. E seguono altri sportivi, cuochi televisivi. Esattamente. Quindi d'accordo. Addirittura solo il 9% degli intervistati riconosce Benedetto XVI come autorità. Ma è abbastanza sorprendente. Cioè, ci sono quasi come Barack Obama. Appunto, c'è lo stesso numero di americani che considera Barack Obama il Papa. Ricordiamo che il campione è soltanto 1000 persone. Ah, beh, in effetti sì. Non è, insomma, però è normale per una ricerca statistica, di solito non sono molto più ampi, quindi insomma. Quello è vero. Bene, che momento di un po' di musica? Sì, ci riprendiamo un po' da questa notizia che bene, sì, dai. Poi abbiamo altre notizie dopo il blocco. Sì, dopo il blocco continueremo con l'attualità. Intanto, dunque, stiamo sull'Italia, torniamo sull'Italia con un pezzo che è già partito. Di massimo volume. Ascoltiamo. Questo è Fausto. Fausto. Scuoti i tuoi angeli drogati, Fausto. Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro. Bene, questo era Fausto del massimo volume. È un po' una canzone delirante, direi, per il suo testo. Sì, sì, sì. Bene, c'è stato una segnalazione, cioè, o meglio, c'è stata una persona che ha individuato lo spezzone che ho mandato prima. È stato indovinato il film. Sì, e infatti era Amore e guerra di Woody Allen. E ha indovinato Woody. Federica. Ciao Federica, grazie, che ci sta ascoltando. E che ci dice anche, ci chiede anzi, se nel Valhalla possiamo fare quello che vogliamo con Thor e il suo martello. Penso proprio di sì, assolutamente sì. Sì, sì. Beh, se ve lo consente. Io suppongo che Thor sia ben contento, però insomma. Vabbè, salutiamo anche Lady che ci sta ascoltando. Ciao Lady. E dunque, andiamo avanti con le notizie. Torniamo subito negli Stati Uniti, perché Herman Cain, che è un candidato afroamericano alle primarie del Partito Repubblicano. Ricordiamo che il prossimo anno ci saranno le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Questo è uno dei candidati alle primarie, che sarà un avversario di Obama, se si ricandiderà Obama. Si è detto sollevato quando ha scoperto che uno dei chirurghi che lo avevano curato dal cancro, tale dottor Abdallah, e qui devo dargli ragione per quello che pensava. Scusa, cosa hai contro chi si chiama Abdallah? No, però lui pensava che fosse di religione musulmana. In effetti, dai pregiudizi derivanti dal nome, è un po' arabeggiante, si può capire. La cosa appunto incredibile è che lui si è detto sollevato perché appunto ha fatto un'indagine, ha scoperto che non è musulmano ma cristiano. E dunque anche Rick Santorum, che è stato un senatore repubblicano, quindi della sua stessa fazione, fra l'altro Santorum, insomma un nome anche, sì, sì. In tema. Un nome in tema, ha detto che secondo lui i musulmani dovrebbero essere controllati con particolare attenzione negli aeroporti. Beh, questo lo dicono dall'11 settembre 2001. Sì, vabbè, ma comunque quando lo dice... Beh, no, oddio, sì. Non si sono spinti così tanto. Cioè, propone proprio per legge di avere un'attenzione particolare. Cioè, ritenerli degli individui particolarmente pericolosi, insomma, soltanto per le loro apparenze. Per la loro appartenenza religiosa. Sì, no, anche proprio apparenza. Cioè, dice che colui che sembra musulmano deve essere sicuramente controllato molto attentamente, perché potrebbe essere un terrorista, ecco. Interessante. Beh, insomma, sembra veramente una vergogna. I lettori giudicheranno. Ma tra l'altro, a proposito di lettori, ascoltatori, fateci pervenire anche, insomma, cosa ne pensate delle notizie che commentiamo. Dateci i vostri commenti a caldo. Giusto. E anche se avete qualcosa di cui non abbiamo parlato, sì, che, insomma, una notizia che vi piacerebbe segnalare, certo. E poi, dunque, già che prima abbiamo ricordato il Valhalla, ricordiamo anche la domanda, ricordiamo anche le domande, soltanto sì. Adesso anche, sì, anche quelle vecchie, sì. Anche quelle vecchie. Allora, partiamo dalla prima è: che cosa è sacro? Poi, come si concilia l'esistenza di Dio con l'esistenza del male? Bisogna credere in Dio per avere un'etica? E poi, quali sono i vostri programmi per l'aldilà? Benissimo, rispondeteci, concorrete al viaggio e in Valhalla. Correte perché manca una settimana. Restiamo ancora in America, e a proposito di terroristi, USA, attentatore spara contro Casa Bianca, Obama è l'anticristo, io sono il nuovo messia. Questo è un 21enne di nome Oscar Ramiro Ortega Hernandez, che è stato arrestato con l'accusa appunto di aver sparato contro la Casa Bianca. Uno dei latinos. Sì. Il nome è riconosciuto grazie a telecamere di sicurezza e fermato in Pennsylvania, rischia una pena pesantissima per aver attentato alla vita del presidente. Lui ha sparato alla Casa Bianca dalla Pennsylvania. No, suppongo lì da fuori, insomma. È un cecchino. È formidabile. Giustamente sono accertati che non potesse nuocere, esatto. Secondo alcuni testimoni avrebbe detto che Barack Obama è l'anticristo e che egli stesso è il messia per combatterlo. Insomma, c'è un filmato praticamente che ritrae questo Hernandez inviato per partecipare al talk show di Oprah Winfrey, che è famosissimo in America. In questo filmato Hernandez è vestito di nero e porta un crocifisso al collo, si dichiara il Gesù dei giorni nostri che aspettavate da molto tempo. Ne arrivano tanti di questi Gesù nuovi, sì, insomma, in effetti, no? Sì, ce ne sono tantissimi, specialmente negli ultimi tempi. Sì, e per uno che va, uno che viene, uno che va. Infatti Bernard Law, forse vi ricordate, ne abbiamo parlato in una scorsa puntata, era quel vescovo di Santa Maria, quello del compleanno sfarzoso. Ci ricordiamo, viene l'acquolina in bocca. Appunto, avendo compiuto 80 anni, si è dimesso da arcivescovo di Santa Maria Maggiore, dove era stato spostato dopo essere stato arciprete della diocesi di Boston. E adesso non può più votare nel conclave, ma rimane comunque un cardinale. E al suo posto, per svecchiare un po' la basilica, è stato nominato il giovanissimo Abril I. Castello, che ha solamente 76 anni, quindi insomma 4 anni. Beh, molto più giovane, no? Cioè, è tutta un'altra, un'altra generazione. E quindi insomma si va verso la novità assolutamente. La chiesa di Santa Maria Maggiore. Assolutamente. Beh. Ma vogliamo fare un salto proprio qui in Italia, ma addirittura qui a Livorno, che sì, è nella nostra città. Vi ricordiamo che trasmettiamo da Livorno. Noi trasmettiamo da Livorno, dagli studi Radio Cage, e nel giornale locale di ieri è uscita una notizia straordinaria, praticamente un'indagine scettica del nostro vescovo che si chiama Simone Giusti, che praticamente aveva ricevuto una telefonata da un parroco che, sentiamo lo stesso vescovo cosa dice. Il parroco mi ha raccontato di aver fatto questa scoperta durante un giro per la chiesa e di aver visto del sangue vicino ai ceri accesi. Insisteva perché tornasse in città e andasse a verificare di persona. Ora, vicino a questi ceri cosa c'era di particolare? Una statua della Madonna. Quindi naturalmente questo parroco si è allarmato e ha pensato che ci fosse un miracolo. Allora, cosa ha fatto? Giustamente. Beh, certo, la prima cosa che pensi. Cosa ha fatto il vescovo per accertarsi, no? per fare un po' l'indagatore del mistero? Gli ho risposto... allora, ho detto al parroco di prendere la statua e chiuderla in soffitta. Ecco, il parroco era dubbioso, mi ha detto, ma se è un segno del Signore? Gli ho risposto che quello era solo il modo per verificare se qualche buon tempone si era divertito a farci uno scherzo. Vede, comunque è un approccio condivisibile, è un approccio molto condivisibile, infatti sono rimasto piacevolmente sorpreso, appunto, perché questo è un evento in realtà di 2 anni fa, però lo ricorda nella messa al santuario di Montenero in onore della Virgo Fidelis, parlando proprio dell'importanza dello scetticismo anche da parte dei credenti. Quindi, credenti che ci ascoltate, mi raccomando, scetticismo lo ha detto un vescovo, quindi... Vabbè, insomma, giustamente affrontate con il cervello gli eventi che si presentano davanti a voi, anche senza per forza che contrastino la vostra fede, ecco. O anche sì, insomma, dipende un anche po'. Anche senza che necessariamente necessariamente, appunto. Va bene, dunque, abbiamo un'ultima notizia flash prima del prossimo pezzo? Sì, bene, mi hai fatto venire a mente con quella cosa dell'anticristo. Sentiamo. Abbiamo letto, dunque, nell'Associated Press si legge che un operaio della Georgia ha fatto caso al suo capo per averlo licenziato, in quanto si era rifiutato di indossare una fascetta col numero 666 sul lavoro. E lui diceva che se l'avesse indossata sarebbe probabilmente morto, sarebbero successe delle cose tremende. E quindi si è rifiutato. Dunque il numero era in realtà il numero dei giorni senza incidenti sul lavoro di quella fabbrica. Il capo tiene conto del numero di giorni passati senza incidenti sul lavoro. In realtà, dice il capo, non doveva essere indossata questa fascetta, era solo una viene solo segnalato in azienda che c'era questa ricorrenza, e lo fanno tutti i giorni. Quindi era una cosa positiva, insomma. Però in ogni caso l'operaio si è rifiutato, e mi sembra anche che sia nei suoi diritti rifiutarsi di mettersi una fascetta. E comunque per questo, per aver mal interpretato i voleri del capo, è stato comunque licenziato, che mi sembra un po' eccessivo sì, decisamente sì. Infatti l'operaio si è, insomma, fatto caso al suo capo, spero che venga reintegrato. Ma d'altra parte la superstizione è una brutta bestia, nel senso che appunto ci sono alberghi, no, in cui la stanza numero 17 non c'è. Sì, aerei, sì, in cui non c'è la fila numero 17, insomma, sì, che proprio è un buco, esatto, in aereo da cui entrano da cui correnti là, esatto, sì, che risucchia però un po', pur di non avere quel posto, esatto. Facciamo partire un po' di musica? Bah, sì, dai. Allora questo pezzo è introduce un po' introduce un po' la novità assoluta, la nostra rubrica che tutti aspettano, ed è Extraterrestre di Eugenio Finardi. Da questo potete già, oddio, capire un po' di cose. Ho già molta potete paura. Potete già avere un po' di sospetti. Va bene, va Finardi. Bene. Finardi che... Financo Finardi. Financo Finardi. Notevole questo pezzo, sì. No, sul serio, non sto scherzando, mi è piaciuto, sì. Non lo conoscevo, devo confessare la mia... Non conoscevi Extraterrestre di Finardi, no, pazzesco. Non ho mai conosciuto nessun extraterrestre. No, beh, quello nemmeno io, onesto, sì. Però... Dunque, è il momento della novità assoluta. È il momentone, esatto. Dovevi fare il jingle, ti ricordo. Nessun jingle, no. Non hai fatto la lezione. No, scappo. No, volevo introdurre la novità assoluta di oggi con appunto una notizia. Allora, mi è capitato di inciampare in questa notizia del giornale svizzero The Local, in cui si dice che la sezione svizzera della setta raeliana mercoledì scorso ha annunciato alla Corte Europea per i Diritti Umani di ritirare la diffida ricevuta nel 2001 a esporre poster raffiguranti alieni, su cui erano presenti anche l'indirizzo del loro sito e contatti telefonici. Le autorità di altre parti della Svizzera permettono ai raeliani di esporre questi poster, ma a Neuchâtel, penso che la pronuncia sia questa, sono del parere che la pubblicità rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico, perché i raeliani promuovono la clonazione umana e la geniocrazia, un sistema in cui i leader sono scelti in base alla loro intelligenza. E inoltre le autorità rimarcano l'ambiguità della posizione dei raeliani sulla pedofilia. Allora, ma si chiama geniocrazia adesso? Boh, vabbè. Cosa? No, geniocrazia non mi sembra un termine appropriato, insomma. Anche per quello che diceva Platone, insomma, il governo dei sapienti. Beh, Platone parlava del governo dei filosofi. Sì, però e sapienti, dei sapienti. Ecco, invece no, invece... No, proprio qui, invece, diciamo, quoziente intellettivo. Esatto, quoziente intellettivo, sì. Rael ha pubblicato proprio un libro che si chiama Geniocracy, in cui predica che soltanto chi ha il QI maggiore della media di almeno il 10% può votare, ecco, quindi un suffragio estremamente ristretto. Interessante. Sì, e quindi vabbè, abbiamo capito che parliamo di Svizzera, insomma. È la religione di oggi. In realtà parliamo dei raeliani. Parliamo dei raeliani, sì. Allora, chi sono questi raeliani? Ma innanzitutto, cosa fa nascere questo movimento? Cosa sono? Allora, la mattina del 13 dicembre 1973, all'età di 27 anni, Rael ebbe lo sconvolgente incontro con un essere proveniente da un altro pianeta. Indovina come si chiama questo essere? Rael? No, l'essere alieno che lui ha incontrato. Beh, penso... dunque... Ci sei? Non lo so. Si chiama Yahweh. Yahweh? Esatto. Ma non ho Yahweh. Sì, no, vabbè, in inglese si dice... Cioè, pronuncia in inglese Yahweh. Non Geovi, insomma Yahweh. Questo ha incontrato un alieno pazzesco. Un alieno che si chiama come un dio. Esatto. Questi gli diede una nuova spiegazione sulle nostre origini e su come gestire il nostro futuro. Dopo 6 incontri consecutivi nello stesso luogo, a Rael fu affidata la missione. Si dava l'appuntamento proprio. Ma penso di sì. Si sono piaciuti. Gli fu affidata la missione di informare l'umanità di questo rivoluzionario messaggio. Passati alcuni mesi a ponderare questo enorme compito, Pordenone, Rael, dopo aver sofferto di un principio d'ulcera allo stomaco, decise di interrompere definitivamente la sua carriera di giornalista per dedicarsi completamente a questa missione. Scrisse quindi il libro che dice la verità, è proprio il titolo, fece conferenze, fece partire questo movimento raeliano, poi il 7 ottobre del 1975 sul Rock Platt incontra di nuovo gli extraterrestri e stavolta può anche visitare il pianeta. È un concerto? No, è proprio incontra di nuovo gli alieni. Ah, Rock Platt, pensavo fosse tipo Woodstock. sia un monte. Tipico. Certo. E appunto dopo questo incontro ha ulteriori rivelazioni e scrive il libro Gli extraterrestri mi hanno portato sul loro pianeta. Ecco. Questo per dire. Sì. Ma cosa gli hanno rivelato questi alieni? Allora, secondo il racconto di Yahweh, la Terra era originariamente priva di vita, con uno spesso strato di nubi a circondarla. Beh, penso anch'io. Gli Elohim separano le nubi, esponendo i mari alla luce del sole, e sintetizzano un ecosistema globale, adattando con la loro tecnologia superiore la vita alle condizioni terrestri. Creano anche gli uomini a loro immagine e somiglianza. Tutto ciò dentro un ampio laboratorio installato su un continente artificiale, che è questo, il Giardino dell'Eden. Sì, ma a me sembra infatti una riscrittura in chiave steampunk, cioè tecnologica della Bibbia. Bravo, è esattamente quello che è. Poi, stupiti dall'aggressività delle loro creature, le escludono dal laboratorio. Successivamente, tuttavia, alcuni Elohim si congiungono con delle terrestri nasce l'attuale popolo ebraico. E cosa succede nel frattempo sul pianeta degli Elohim? C'è un partito di opposizione guidato da Satana che pensa che sulla Terra siano stati creati esseri pericolosi e ne reclama la distruzione. Le tesi di Satana prevalgono ed è provocato il diluvio. Ecco il diluvio come è successo. In realtà è dovuto a un bombardamento atomico, però, da cui tuttavia un gruppo di Elohim salva alcune sue creature a bordo dell'Arca di Noè, un'astronave, sotto forma di DNA. Dopo il diluvio, gli Elohim si rendono conto di essere stati creati a loro volta da esseri venuti da un altro pianeta e così via all'infinito, insomma, il ciclo interminabile. Sì, è quello che si chiama regressus ad infinitum, esatto. nel termine tecnico. Complimenti, grazie. E quindi non c'è una causa prima. Esatto. E fanno il voto di non distruggere mai più l'umanità, anzi inviano sulla Terra messaggeri per rivelare la verità, sia pure inizialmente in forma allegorica e velata. Gli Elohim hanno già avuto altri 40 profeti, tra cui Mosè, Elia, Ezechiele, Buddha, Giovanni Battista, Gesù, Maometto, Joseph Smith, Baha'u'llah. E ricordiamo, molti di questi sono anche reincarnazioni di tutti. Esatto, i nuovi profeti cui abbiamo parlato. Sì. Insomma, Ballard, anche... Ma Baha'u'llah è una new entry, secondo me. Sì, cioè, no, Baha'u'llah in effetti sì. Ecco, secondo me Rael è l'unico che l'ha considerato. Beh, diciamo è molto recente. È molto recente, Baha'u'llah, sì, è del 1844, quindi... magari ne parleremo. Comunque, nel secondo incontro, tra le ulteriori rivelazioni, Rael apprende che è lui stesso il frutto di una relazione fra Yahweh e sua madre, rapita a bordo di un disco volante e inseminata, come del resto era già stato fatto per la madre di Gesù. Beh, no, ecco, questo... Ah, ma questo lo dice... Assolutamente, questo lo dice lui nel libro... Non mi risultava. No, nel libro gli extraterrestri mi hanno... Ma che canone! Beh, ovviamente, non c'entra nulla con... Perché qualche punto contatto ce l'ha, no? Anzi, qualche punto, è proprio una riscrittura. Beh, brevemente, cosa dicono questi raeliani? Allora, sono atei, ripugnano il soprannaturale, l'esistenza dello spirito, ma credono che gli esseri umani risorgeranno attraverso l'uso dell'ingegneria genetica. Beh, come insomma la creazione, si riperpetuano il mito della creazione. In pratica sì. Poi cercano di costruire un'ambasciata per l'arrivo di questi alieni, che dovrebbero tornare dopo il 2035. Il loro scopo è raccogliere fondi, devono raccogliere 20 milioni di dollari. In realtà, è lo scopo un po' di tutti. Noi in realtà. Sì. Ma secondo il Chicago Sun, questi 20 milioni di dollari sono stati già raggiunti nel 2001. Quindi non si sa bene, sono moltissime, quanto so. Hanno un bel seguito, quindi sono 70.000 attualmente nel mondo. 70.000, sono 20 centesimi a testa, ecco. Sì, certo. Non molto. E poi da un punto di vista sociale sono molto impegnati per la liberazione sessuale, proprio predicano sesso promiscuo, eccetera, eccetera. Procreazione artificiale, masturbazione, contraccezione, OGM. Masturbazione artificiale? No, masturbazione è tradizionale. Lotta all'asportazione del clitoride per motivi religiosi, questo è giusto. Con l'organizzazione umanitaria Clitoraid. E varie altre difese. Il nome è un po' infelice, devo dire. Il nome è fantastico. Comunque è una cosa degna. Insomma, non tutti forse sanno. Gravissimo. È un problema gravissimo. Sì. Forse non tutti sanno che Rael, prima di incontrare gli alieni, era un pilota automobilistico ed era anche un compositore che aveva pubblicato dei dischi anche, 5 dischi tra il 66 e il 71 sotto lo pseudonimo di Claude Seller. Ecco, ma tu non li hai. Hai paura, eh? Sì, un po' no, sì. Non ho questi dischi, sì. ma lui continua a impiegare il suo talento musicale per comporre pezzi surrealismo. Surrealisti, anche esatto, e volevo farvene sentire un pezzettino. Lo sapevo. Ci avrei scommesso. Allora, sentiamo Fede se ci manda un pezzettino. Allora, questa canzone si chiama Elohim. Non nome che mi attendevo. Come facevi a attenderti? Sentiamone un 30 secondi. Niente male, eh? Questa è la sua voce, la voce del profeta, di Rael. No, ma più che altro mi ricordava un po' la sigla della DreamWorks, di qualche altra 20th Century Fox, non lo so, qualcosa del genere. Ma ti piace? Ha il suo perché, eh. Ecco, se ti piace l'atmosfera. Se ti piace, sul sito dei Raeliani puoi scaricare diversi MP3. Gratuitamente, sì, sì. Allora sì. Se no, secondo te lo prendevo. No, vabbè, voglio dire. Sì, vabbè, io ti avevo chiesto se non l'avevi comprati, ma intendevo se li avevi, invece, quindi li hai scaricati, li hai e te li ascolti tutti i giorni. Certo. Va bene, chiudiamo l'argomento dicendo che diventare raeliano, questo mi sembra doveroso, perché abbiamo detto tante cose su cose, tanti vorranno diventare raeliani. Giusto, a questo punto come si fa? Diciamolo. Dunque, è richiesto un atto ufficiale di apostasia dalla precedente religione, è richiesto anche un nuovo battesimo, detto trasmissione del piano cellulare. Non so se è la tariffa, il piano tariffario del telefono. Ma no, comunque, assolutamente. Di fatto l'officiante sparge dell'acqua sul capo del nuovo membro, ma dicono che in questo modo l'informazione genetica della persona viene registrata in un computer remoto degli Elohim. Questa pratica è stata iniziata da Ryan nel 76 con i primi 40 battesimi. Ecco, quindi se volete diventare Ryan dovete fare apostasia, apostasia e poi il battesimo. Questo battesimo cibernetico, esatto. Come un po' tutto cibernetico. Ormai, nel realismo. Sì, no, ma proprio nella vita, certo. Insomma, società tecnologiche e altre cacchiate. Come? No, non si può dire in radio tecnologica. Ah, giusto. No, chiudiamo dicendo che negli anni 90 è stato creato l'ordine religioso raeliano riservato alle donne, l'ordine degli angeli di Rael. Sono 220 donne con lo scopo di prendersi cura di Rael, degli altri 39 profeti, quelli di Mosè, eccetera, e degli Elohim quando tornano sulla terra. Quindi devono comunque prendersi cura di qualcuno, queste ma povere in pratica donne. Attualmente, mi sembra giusto, ma in pratica attualmente sono tutte per Rael. Ok? Sì, vabbè, siamo stati spiegati. Ecco, quindi, no, quindi diciamo un'apertura verso l'altro sesso, in realtà un harem, cioè ma una simile apertura, ma in realtà poi è sostanzialmente un harem. Ma queste donne volontariamente si vogliono offrire ai profeti e ai loro creatori, cioè è la loro gioia. Va bene. Che lo facciano, Si va con l'ultimo pezzo della giornata? Sì, beh, togliamo intanto questa nenia. Che comunque sì, ha il suo fascino e tutto, però dopo un po' si richiede anche qualcos'altro. Esatto. Sì, questo qualcos'altro andiamo cos'è? Con l'ultimo pezzo, che è un pezzo dei Dream Theater. Bellissimo. È Another Day, ci culla un po' anche questo, però con più classe, secondo me. Diciamo di sì, decisamente. Bene, mi sono riconciliato con me stesso. Eh sì, con l'universo, sì. Dunque, ringraziamo Ilario. Ah sì sì, che ci sta ascoltando. Sì sì, che conduce una trasmissione. Sì, qui su Radio Page il martedì. E una trasmissione di cinema. Sul cinema. E vi consiglio di seguirla se ne avete l'opportunità. Molto interessante. Hai qualche segnalazione? Qualche vice? Velocissima segnalazione, perché siamo in chiusura. Allora, per quanto riguarda i raeliani, in Italia sono circa 500 e proprio oggi, stasera, dalle 21 alle 23 a Torino, a Corso Peschiera 364, c'è la serata dedicata alla meditazione sensuale, che è una meditazione inventata da Rael. Sensuale, in cui si comincia meditando sull'universo e si finisce facendo sesso. E poi domenica 27, incontro del movimento raeliano in Lombardia, dalle 15 alle 18 a Segrate via Mendola. Poi, sono anche dei leghisti raeliani, secondo te? Secondo me sì, di contatto, ma secondo me eh? Sì, perché il simbolo del movimento raeliano è una svastica, proprio orientata nel modo nazista. Qui quindi, stai facendo delle connessioni un po' forti. Una connessione come tutte le altre, una reconnection. Bene, sì, dai, non vedo cosa c'entri con quel simbolo originariamente pacifista. No, pacifista, assolutamente, sì, ma anche secondo i raeliani è un simbolo di pace. Sì, sì. No, perché secondo te cos'era? Secondo è te c'è invertita come svastica, giusto? No, quella raeliana è uguale a quella nazista. Ah, però è un simbolo di pace. No, c'è caso di salvare il salvare. No, allora, secondo te c'è qualcosa all'hotel Le Conchiglie? Secondo me sì. Secondo me è dalle parti di Rimini e Riccione. Hotel Le Conchiglie e Riccione, 25, 26, 27 novembre. Un hotel che, in cui non trovate mai posto. Mai posto, perché c'è sempre la gente che fa i convegni, esatto. Che dorme anche lì, suppongo. Esatto, c'è Eric Pearl che è una notorietà a livello mondiale perché insegna delle connection. Beh certo, lui guarisce con l'imposizione delle mani e insegna a farlo anche agli altri. Le tue mani verranno abilitate a sopportare queste nuove frequenze. Apporterà in te quel cambiamento che ti consentirà di sostenere e gestire questo spettro completo costituito da energia, luce e informazione. Questo alla modica cifra di 656 euro per le tre giornate. Non è molto, dai. Che hai i due livelli della reconnection. Beh, potete scegliere se comprarvi un iPhone oppure andare a imparare questa tecnica. Oppure mandare a noi un 500 euro che vi assicuriamo che avrete la trasmissione di vita naturale durante. Di, di, di tutta la Apple. Esatto. Noi abbiamo dei contatti, insomma. Beh, poi vi lasciamo, vi diciamo, lasciamo stare, non entrare, non in sveliamo le nostre influenze, vabbè. Oh, e poi giovedì prossimo qui a Livorno alla libreria Belforte, via della Madonna 31, ore 17:30, ci sarà Valentina Calvelli, celebrante laica, che ci introdurrà alle cerimonie laiche. Questo è ingresso libero, è un argomento molto interessante, vi invito ad esserci. Se non potrete esserci, Valentina poi sarà con noi in trasmissione, quindi vi annunciamo, sì, la prossima puntata, se tutto va, esatto, bene, se tutto va bene, tutto andrà bene, ma tutto andrà bene, senz'altro, sì, Valentina Calvelli sarà con noi per parlarci appunto di cosa significa cerimonia laica, e ci, insomma, intervisteremo, sarà, sì, con noi per tutta la puntata, sì, insomma, no, per tutta non penso, però insomma, sì, poi... sì, sarà con noi per tutta la puntata. Va bene, scusa, è un'ora, chiedo scusa. Bene, allora, la puntata finisce qui. Beh, ricordiamo i contatti, ricordiamo i contatti, ovviamente testo croce show @gmail.com, lo Skype da aggiungere è testa croce show, e il nostro blog è testacroceshow.blogspot.com. Vi ricordiamo, ci sono delle domande in corso per, sì, il, sono scritte anche sul blog, tra l'altro, viaggio nel Valhalla per due persone, quindi, esatto, è l'ultima settimana disponibile, è l'ultima chance, quindi, per questo premio, su questo premio fantastico, e poi ci sarà un'estrazione nella prossima puntata, esatto. Va bene, benissimo, allora oggi è la giornata di ringraziamento, quindi ringraziamo particolarmente tutti, Radio Cage, la stanza in cui siamo, i passanti, Federico che ha costruito la trasmissione con noi. Dopo di noi ci sarà... No, presentiamo questa degnissima trasmissione che c'è dopo di noi. Dopo finalmente. Di noi, appunto, dai, ci sarà Jacopo con Dietro l'Angolo, ci parla di band giovani livornesi, quindi non chiudete il browser. Ci scusiamo per esserci un po' allungati. Sì, ci siamo un po' allungati, insomma, abbiamo avuto un po' di ritardo, comunque... Vi lasciamo in buona compagnia. Vi lasciamo in buona compagnia, insomma, con Jacopo, e ci sentiamo giovedì prossimo, giusto? Beh, sì. State con noi. Se ci siete, noi ci siamo. Esatto. Ciao a tutti. Ciao. Sigla. A tutti.